Al mercato di oggi i maiali castrati e le scrofe giovani fra i 110 e i 130 kg sono scesi a 40 dollari. Le scrofe tra i 150 e i 250 sono stabili. Passiamo al bestiame da pascolo. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Non vuole Renzi e gli dice che il suo verso è uno ed è andarsene. Vogliamo solo vedere che se ne va. Appartenenza, tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a far dei complimenti ci vuole fantasia. A me indigna che il Politecnico come istituzione universitaria si riduca ad essere semplicemente una passerella per il Presidente del Consiglio. Un bel paese pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale. Immagino di un paese dove l'industria che qualcuno pensa che funzioni è l'industria della ragna, del rammarico. Sono 10 anni che i talk show serali fanno sempre lo stesso show. Colavo e non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati di ogni discussione. Cervelli all'estero, che lasciano da noi soltanto i pancreas e i fegati, sembra, no? Cioè, tutti i cervelli sono tutti all'estero. Produzione industriale zero, siamo il secondo paese come produzione industriale manifatturiera d'Europa. Prima la Germania, ma adesso vi riprendiamo. Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non insomma, sento insomma, basta questa lagna, basta il racconto della lagna. Questo ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, l'industria della lagna, un racconto dell'Italia nauseabonda. Invece ci vuole l'ottimismo, il racconto dell'Italia che ce la fa, il racconto del... Poi ce l'ha ancora quei talk show, Porca miseria, già la terza, quarta, quinta volta che se la prende coi talk show Matteo Renzi. Allora, fa bene secondo voi Renzi a lamentarsi, lui lamentarsi del racconto lamentoso che c'è dell'Italia, oppure fa male? Ditecelo al 349-238-6666. Questa è 24 mattino. Sono le 6:31 minuti qui in Italia a Radio 24, negli studi di Milano. Lorenzo Nespoli è con noi, è in redazione. Anche il nostro alpino è qui che lotta, Peter Bescapè. Ieri ero un po' emozionato perché c'era Paola Saluzzi che si è sposata di nascosto e le abbiamo messo la marcia nuziale. Oggi sono ugualmente emozionato, devo dirlo, perché oggi c'è un ritorno mitologico, quasi incredibile, dopo un po' di astinenza. Vabbè, rullino i tamburi. Ce li dobbiamo dire. Cosa facciamo? Apriamo prima il Parlamento o prima lo salutiamo? Decidi tu, Peter Bescapè, sei tu il regista. Cosa facciamo? Albertone Forchielli, buongiorno. Ciao Alino, ciao. Eccoci qua, torna Albertone Forchielli. Da quanto tempo è che non ti sentiamo? Qualche mese? Sì, da metà novembre. Da metà novembre, mamma mia. Allora facciamo così, apriamo subito il Parlamento, che abbiamo adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai tante ci vediamo tante cose da dire, tante cose. Siamo con Alberto Forchielli, il nostro grandissimo amico. Dove sei intanto, Alberto? Sono a Bangkok e lo sai benissimo. Bangkok, ma certo che lo so, ma Bangkok, ma è bellissimo. Quindi tu sai che io sono milanista. Mi puoi raccontare tutto su chi sei, su chi sarà il prossimo proprietario del Milan, Mr. B? Che dice? Sì, sì. Non far la scena, perché sono arrivato ieri a Luna, a Bangkok, c'era un tuo email che mi intimava di informarti. Sì, difatti ho fatto una notte in macchina da Roma a Milano, sì, una notte in aereo da Francoforte a Bangkok, e tu mi hai intimato di scoprire tutto su Mr. B e mi hai costretto ad andare a fare una visura camerale. C'era solo io, capito? Allora, Mr. B, sì, suo padre era consulente dell'ex primo ministro Kun Chavalit, sì, che era l'ultimo prima del ciclo di Thaksin. Sai che la Thailandia ha avuto quel Thaksin, sì, che era un tycoon, una specie, sì, di Berlusconi locale, certo, che è coinvolto. Certo. Finora Mr. B ha fondato 15 società, di cui 10 già chiuse. Tra le 5 restanti, quella più capitalizzata, nel 2014, ha perso circa 100 milioni di baht. Che le altre hanno un capitale sociale irrilevante. Ad occhio, Mr. B assomiglia più ad un furbetto del quartierino, tipo Ricucci, Fiorani. E io, onestamente, più che Mr. B, lo chiamerei Mr. Bean. Cioè, se vuoi altro, ma comunque. Sì, Mr. Bean. Insomma, è un patacca. Ma forse per decidere di non vendere il Milan a uno così, mi basta già così. Non lo so. Potrebbe avere dietro i soldi di uno o più delle 10 grandi famiglie thailandesi, perché oltre non si va. Potrebbe o può, cioè ce li ha o no? No, no, questo non lo sa nessuno. Lui comunque qui è saltato agli onori della cronaca dei giornali thailandesi quando ha fatto l'offerta sul Milan, ossia prima non lo conosceva nessuno. Cioè è diventato famoso perché ha detto voglio comprarmi il Milan. Mr. B, ma Mr. Bean. Mr. Bean, sì, vendiamola a Mr. Bean che va meglio. Vabbè, ho capito che insomma me la devo mettere in saccoccia, come si suol dire, questa speranza. No, poi mi devi anche ringraziare, perché andare a fare una visura camerale dopo i viaggi che ho fatto. Ti ringrazio. Poi fai anche finta in trasmissione che sia tutta una novità, capito? No, va bene, ti ringrazio. Se vuoi ti mando dei bat, anche dei 5 o 6 bat. Western Union, mandami 1000 bat. Faccio una rimessa. Un giorno hai detto che gli italiani dovrebbero andare via tutti e vivere di rimesse come le Filippine, e che io inizio a farti una rimessa da 5-6 baht, va bene? Bello. Hai sentito però, Renzi? Basta con questa lagna, basta questo racconto lagnoso dell'Italia. Ma sai, Renzi, intendiamoci bene, comunque passi avanti ne abbiamo fatti, almeno Renzi segue la troica, perché Berlusconi seguiva le troiche e molti preferiscono le troiche alla troica, anche perché si va in bolletta comunque, ma almeno non hai la Merkel come badante. Quindi, ecco, che immagine, il paese sta facendo dei progressi importanti. Che immagine da Bangkok. Renzi è un po' come Rasputin, fa comprare le banche dal suo portinaio, incula il Berlusca senza vaselina. C'è una taglia della lipo su di lui perché vuole uccidere tutti i gufi. In Toscana ha fatto aprire la caccia al cardellino, insomma, faccio giudicare a te. Vabbè. Il resto direi va che, come editoriali vanno bene, direi che sei stato un uomo solo al comando, insomma. Un uomo solo al comando, no, però il racconto sarebbe quello dell'Italia. Vabbè, tu sei quindi di quelli che non sei del racconto dell'Italia che... ottimista, dell'Italia che va bene, dell'Italia che deve almeno l'Italia in pole position, questo forse è il meglio che riusciamo a esprimere. Alla maggioranza degli italiani si vede che va bene. Va bene, va bene. Si vede che dice quello che gli italiani vogliono sentirsi dire. Votano, votano così. Comunque, comunque, qui è un profluvio di messaggi, eh. Evviva, c'è Forchielli, gran ritorno, ti scrive Francesco da Mantova. Evviva Albertone, dai, dai, perché aspettano da te, insomma, che le canti e le suoni un po' tutti. Vabbè, comunque, noi e tutti i giornali qui ci aprono, siamo un po' preoccupati per questa storia della Libia sul fronte della guerra e anche un po' della Grecia, siccome tu insomma di cose finanziarie te ne intendi, giri, viaggi per il mondo, la domanda che si fanno tutti è questa: ma la Grecia ce la fa oppure no? Perché la preoccupazione c'è, Alberto? Ce la fa assolutamente. Ce la fa. Per due ragioni semplicissime. La prima è che i tedeschi non vogliono essere leader perché sanno di non essere amati, non sono come gli americani che pensano di andare in Iraq e avere la gente che gli butta i fiori dai balconi. D'altro canto i tedeschi odiano prendersi delle responsabilità, quindi questo è un enorme gioco delle parti. Secondo, l'America sta premendo in modo molto importante perché sa benissimo che il mondo occidentale non può permettersi una Grecia allo sbando, con Putin da un lato che non rispetta la tregua in Ucraina, con l'ISIS che ci fa tremare tutti. Non è questo il momento di far saltare la Grecia, insomma. Ho capito, ma cos'è un gioco delle parti? La Grecia non salterà. Ma come, cosa vuol dire il gioco delle parti? Cioè, intanto in Grecia. Beh, adesso chiaramente la Merkel deve soddisfare tutti i falchi che ha, perché i tedeschi, l'opinione pubblica tedesca non è certo a favore di un salvataggio della Grecia. Guarda come sono andate le elezioni ad Amburgo. E Spiras deve far vedere ai greci che lui da giù Spiras e Scarciofakis devono far vedere che come, scusa, chi è l'altro Scarciofakis? Sarebbe Varoufakis. Sì, non mi ricordo come si chiama. Varoufakis, lo scarciofato lì, sì. Perché scarciofato? Ma dai, ma sì, è lì che va con la camicia di fuori per coprire le pezze al culo. Scarcio Fanchi, ho capito, ma scusa, sono stati votati allora Tsipras, non Spiras, Tsipras e Varoufakis, che è il ministro delle finanze. Tsipras sembra la marca di un antibiotico, fa parentesi, comunque sì, sembra quello, un po' di nome. Sì, però cosa devono fare? Loro sono stati eletti dai greci proprio con il programma di distruggere tutto ciò che il vecchio governo aveva trattato con la Troica. Lo distruggono, così dopo le banche non danno più credito e la Grecia salta. Capito? Se mi posso dare anche un mandato per buttarmi dal decimo piano del condominio, sì, come vuoi tu. Ma che mandato vuoi che sia, capito? Quindi un mandato. Sì, non è che un voto democratico può cambiare la realtà finanziaria di un paese. Ho capito, chiaro, no? Però loro cosa dovrebbero fare? Disconoscere tutto quello che hanno fatto come programma? Ma no, adesso la BCE interverrà sulle banche e poi si farà un accordo, sarà fatta all'ultimo minuto, ci faranno soffrire, ognuno deve far vedere la propria constituency dove ha dato il massimo, poi alla fine si mettono d'accordo. Io proprio sulla Grecia starei molto tranquillo. Molto tranquillo, vabbè, è una visione. Sì, detto, guarda, non dobbiamo fartene sul comodino, da una parte la foto di Putin e dall'altra la foto del califfo. Con califfo e Putin l'integrazione europea va avanti. Vabbè, dobbiamo vedere addirittura anche la foto del califfo. Sì, la foto del califfo. Califfo, ma Sì, senza una paura esterna noi non. La paura esterna. Niente. Adesso i titoli, per dire, oggi succede questo: gli 007 hanno detto, gli italiani dicono che questa storia che ci mandano i barchini pieni di gente che si fa esplodere è un po' una buttata, un'esagerazione. Titolo del giornale: i terroristi sono già a Roma. Titolo di Libero. Com'è che è il titolo di Libero? Il titolo di Libero è ancora più terroristi nei barconi, così, questo è il titolo di prima pagina. Vabbè, ma vogliamo sentire Gentiloni? Ti faccio sentire il ministro degli esteri, che ieri era al Senato, oggi parlerà alla Camera sul rischio della Libia, il califfo, no, Scarciofakis, com'è che lo chiami? Carciofakis. Salutiamo tutti gli amici di Atene, ovviamente. Gentiloni. Signora Presidente, colleghi, il deterioramento della situazione sul terreno impone dunque, sottolineo, lo impone, un cambio di passo da parte della comunità internazionale prima che sia troppo tardi. Il governo è impegnato a tutti i livelli a promuoverlo. Sai che questo cambio di passo, sai il nome che da alcuni giorni, anche oggi, spunta sui giornali, caro Alberto Forchielli, che potrebbe andare a fare, a rinforzare la missione diplomatica dell'ONU in Libia? Sai il nome che circola da giorni? No, ma lasciatelo stare, Prodone, poveretto. Prodone. Meglio darla persa, amico tuo. Ce li abbiamo piantati come gerani in terrazza, lascia stare. No, cos'è che hai detto i gerani? Cosa c'entra i gerani? Sì. C'è meglio darla persa, lasciarli lì. Ce li abbiamo piantati come gerani in terrazza. No. Lasciali lì. Per capire il casino che c'è in Libia, basta vedere come si chiama il capo del governo, Altani. Vi ricordate voi la supercazzola prematurata con scappellamento a destra come se fosse Antani, da film Amici Miei? Ma era meglio lasciare Gheddafi con le sue amazzoni, capito? Adesso più andiamo, me la ricordo, lì, il barcone non è un problema. Vabbè, il barcone... Poi non capisco neanche perché abbiamo fatto rientrare il nostro personale d'ambasciata. Ma ho capito, ma la situazione... Per catamarano noleggiato. Ma la situazione è complicata. Ma no, ma è complicata la situazione, non è che... Ma la Franco Rosso ne è di bellissimi, solo che io penso che il noleggio l'abbiamo pagato con un po' statato, te lo dico io. No, vabbè, ma al di là di come sono rientrati, la situazione è complicata, anche l'ENI ha fatto rientrare tutti i propri dipendenti. È un problema che se lo devono vedere loro, è un problema interno all'Islam. Non è un problema nostro, non si può intervenire, non sai neanche chi è amico, chi è nemico, mica te l'hanno scritto in faccia col timbro. Sì, il problema è quella religione, purtroppo, è contraria alla modernità. Il mondo avanza, le donne, i ragazzi vedono un mondo che sostanzialmente diventa prospero e loro rimangono lì attaccati al palo. Per cui il paese è in fermento in Turchia, è in fermento in Iran, capito? Rimangono drammaticamente indietro, primavera araba, è un mondo che si spacca, capito? Non puoi pensare di mandar lì bisognava lasciarlo stare invece di andare a... Più andiamo a insigare in quella roba lì, peggio facciamo, perché facciamo il loro gioco, perché ovviamente loro dicono, ecco la crociata, loro vogliono lo scontro con l'Occidente per... Sì, questo quindi, l'hanno già detto in molti, se venite qui è una crociata. Lasciali lì. Ma che vuol dire lasciali lì? Ma sono a 500 chilometri, lasciali lì, poi voglio dire... È 500 chilometri, se vanno, la linea sull'Isonzo sarà stata 500 metri, adesso perché per 500 chilometri. Ma ho capito, ma se vanno a Parigi e sparano nella sede di Charlie Hebdo e ammazzano le persone, capito, vanno... 11 morti, ha fatto più morti un semaforo sulla Selice, sai, a Imola. Non ti preoccupare, cosa vuoi che sia? Alla fine, cioè, cosa dobbiamo considerarli quelli islamico nel mondo? Non è che siano tantissimi, No, fortunatamente no. Cosa dobbiamo considerare quindi quelli? Un po' di calma, capito? Tanto non ci possiamo fermare. Pinzighiamo, l'America ha bombardato 14 paesi musulmani. Ha migliorato le cose? No. Basta. Quindi bisognerebbe lasciarli lì. E se succede a Parigi, considerare come incidenti di percorso, danni che ogni tanto... Insomma, di conti interno tra i sunni e gli scià, è una roba loro. Ho capito, però ripeto, quando vengono a Parigi, che come li consideriamo? Danni che purtroppo dobbiamo mettere in conto. Ovviamente dobbiamo impedire il rientro di quelli che escono per terrorismo, controllare severamente le infiltrazioni, ovviamente bloccare l'immigrazione, per carità, basta, capito? Anche basta. Questi hanno una demografia pazzesca. Forchielli leghista, riprendiamo da qui dopo il traffico. Aspetta. Dopo il traffico. 24 mattino. Ma Alessandro, il governo vuol mettere anche la tassa sul contante, ma ti sembra una cosa normale? Ma questo è uno stato di polizia fiscale. A questo punto chi evade è un patriota. Beh, quale smacco migliore che mandare agli islamici dell'ISIS il mortadella, ragazzi, no? E prendo il giornale e leggo che al Senato di ladri ce n'è, alla Camera, wow, oh, yeah! Noi emiliano romagnoli siamo pronti ad affrontare l'ISIS. Abbiamo salami, coppe, prosciutti, zamponi e perché no, anche il culattello. Ni avanti, segui il coraggio. I vitalizi politici ci costano 170 milioni di euro all'anno. Un governo serio li avrebbe già aboliti tutti. Ma per fare ciò occorrono le palle, cosa che il governo Fonzi non ha. A Fonzi bastano le chiacchiere. Milan, visto che sei bravo, per favore toglici dalle palle quel sapientone da Hong Kong che fa il Gino Bartali dicendo sempre che tutto è sbagliato. Se proprio devi fare il paraculo, scegliti per il tuo teatrino una spada divertente, come faceva Totò con Peppino. Credo che ce l'abbia con te, caro Albertone Forchielli, eh? Credo che ce l'abbia con... Abbiamo tenuta forse da novembre questa, da farti sentire, eh? Oh, vabbè, ma sai, trattarti con me. No, no, ma in realtà tanto affetto. Anche hai sentito quello che sei pronto con zamponi, culatelli, salami, coppe ad affrontare l'ISIS. Oh. Vabbè... Alberto, che dobbiamo dire? Dai, allora, ti mandano un grande saluto da Bologna. Ti chiede un altro perché eri con Danilo Masotti. Vabbè, che... vabbè, così, ti hanno pizzicato a Bologna con Umarenza. Sì, perché adesso il comune non c'ha più i soldi per spallare la neve e allora fanno degli igloo. Ma che capito? Cosa c'entra? Cioè, Bologna è piena di glu. Cioè non sparano e fanno no, di glu. Bologna ha fatto un gemellaggio con Reykjavik in Groenlandia, per cui in mettono Islanda. Questi glu, poi dentro sì. Ci mettono dei bar, delle sale biliardo, delle cose così. poi le officine Macchiaferri sta studiando dei sistemi di refrigerazione, speriamo di mantenerli fino a Ferragosto in modo da attrarre turisti. Vabbè, sì. Senti un po', Albertone, qua si parla un po' della politica, finalmente almeno sui giornali per un po' è sotto traccia, eh? Si parla di Libia, si parla della Grecia, si parla di cose un po' più importanti, no? Internazionali, uno sguardo. Per il resto c'è Mattarella che sta incontra anche Beppe Grillo, eh? Hai saputo? Beppe Grillo al Quirinale, hai visto? Ho visto. Adesso mi dicono che Grillo e Casaleggio passino dalla Barberia del Vaticano per farsi riassestare. Sì. Dai barbieri quelli. Sai che il Papa, no? Sì, ha fatto la barberia per Li ha visti in fila alla Barberia del Vaticano. Per la verità è per i clochard, quella è per i barboni. Sì, appunto. Vabbè, eccolo lì. Tu lo sai che se io twitto questa cosa che farò, ti faranno passare una bella giornata a Bangkok gli amici del 5 Stelle, eh? Sì, oh. ma sono diventati più meno barbarici. Meno barbarici? Sì, sono meno barbarici. Cioè ti contestano meno? Sì, mi contestano meno. Cominciano ad avere dei dubbi anche loro. Vabbè, allora senti qui, visto che hai detto prima chiudere i migranti, senti Salvini cosa ha detto, eh? Ho riscoperto un po' un'anima leghista in Forchielli in questa cosa sull'immigrazione. Senti se sei d'accordo su Salvini anche su questa, sullo scontrino. Secondo me obbligare allo scontrino, al limite del denaro contante, al bancomat, questo può andare bene a Cuba, può andare bene in un regime. Noi dobbiamo agevolare la gente che produce, o facciamo tutti i dipendenti pubblici, oppure permettiamo che nel privato si paghi il 20%. Questo dice, stato strozzino, dice ma il Salvini. Il 60% di posizione fiscale. Capito? È strozzinaggio. Strozzinaggio. Sì, io non so, non riesco a dire... a valutare l'evasione di basso livello. Il problema è mondiale, è che le grandi multinazionali non pagano più tasse. Questo è un problema. Sono stato in America 3 mesi, ecco perché non sono venuto a Parlamento. Tutti i giorni sui giornali Obama ha fatto alcun decreto.

mare dilaniato con fazioni, tribù che si combattono, jihadisti infiltrati, le coste libiche che sarebbero sotto controllo dei jihadisti che ora potrebbero utilizzare i barconi dei migranti come anche arma di pressione. Addirittura questo è uscito su un giornale inglese ed è stato smentito, è ritenuto poco attendibile dai nostri 007, dall'intelligence italiana, potrebbero essere utilizzati barconi con utilizzo di kamikaze contro le nostre navi. Bene, non serve la smentita degli 007 italiani sui giornali, su alcuni giornali in particolare, guardate oggi Libero, il titolo è «I terroristi arrivano coi barconi». Insomma, c'è in questi casi anche una sorta forse di isteria collettiva e di esagerazione. Comunque voglio porre già queste considerazioni e sentire il parere di Massimo Cacciari, che saluto. Buongiorno professor Cacciari. Buongiorno. Senta, intanto glielo chiedo subito, una guerra sarebbe il caso o sarebbe un disastro? Beh, guardi, le guerre servono se sono, servono tra virgolette, ovviamente, bisogna essere anche realisti, servono se sono condotte secondo una strategia politica. La guerra per la guerra è la pura violenza e non serve assolutamente a nulla. Quindi, come lei ha detto giustamente nella presentazione, se le guerre continuiamo a farle come le abbiamo fatte in Iraq o come le abbiamo fatte per abbattere Gheddafi, sono dei semplici disastri che non faranno altro che peggiorare la situazione mediorientale, che peggiorare il conflitto con queste componenti dell'Islam, perché bisogna sempre sapere, distinguere, discernere, cioè anche all'interno dell'Islam è in atto una vera e propria guerra civile. L'Egitto non bombarda per finta l'esercito dell'ISIS, è una vera guerra, cioè all'interno del mondo islamico le differenze sono abissali e quindi una vera politica occidentale dovrebbe mirare a quello, dovrebbe mirare a far leva su queste contraddizioni, a promuovere quelle componenti del mondo islamico che sono per un processo di modernizzazione, anche di democrazia a modo loro, non certo a modo nostro, importandola da noi. Cioè, tutto, cioè, bisognerebbe fare esattamente tutto l'opposto di quello che si è fatto da 25 anni a questa parte. Ecco, molto bene. Ecco, tra l'altro ricordiamo questo è il tema fondamentale. L'Egitto, dopodiché le strategie devono essere diversificate, perché una cosa è affrontare il fondamentalismo in house che abbiamo in Europa, sì, l'Islam europeo, un altro affrontare il problema dell'immigrazione, un altro affrontare la guerra con l'ISIS, sono tutte cose che vanno distinte. Ecco, tra l'altro le chiedo, quali occorrono strategie diverse. Le chiedo questo a proposito di immigrazione, perché è uno dei temi che forse sentiamo più vicini, perché concretamente è vicino a noi. Lei è stato anche sindaco. Ieri c'è stata la notizia del prefetto di Treviso che ha detto: non abbiamo posto per tenere 45 migranti, e quindi ha dato l'ordine: disperdetevi. Prima li abbiamo controllati dal punto di vista sanitario, li abbiamo registrati, abbiamo preso l'impronta, poi disperdetevi. Ecco, che Stato è uno Stato che reagisce così? È uno Stato di lasciamo perdere l'aggettivo, cioè il termine, nella mia regione me ne accorsi 20 anni fa, quando ero sindaco e ci fu la guerra, la tragedia nei Balcani, in Bosnia, e vennero molti, non così tanti, ma tanti immigrati che fuggivano dalla guerra, e l'unico che attrezzò un campo profughi, eccetera, mentre tutti gli altri sindaci, tutti gli altri comuni li respinsero, fu il comune di Venezia. Quindi non c'è nessuna solidarietà, cioè manca ogni solidarietà nei confronti di quelle regioni, che sono soprattutto quelle siciliane, quelle meridionali. Una volta era quella pugliese, quando ci fu la tragedia in Albania, sì, centinaia di albanesi che fuggirono in Puglia, e la Puglia seppe accoglierli, tanto è vero che io proposi addirittura il premio Nobel per la pace per dei comuni, come ora bisognerebbe proporlo per Lampedusa, il premio Nobel per la pace, altro che il premio Nobel a Obama per la pace, che sono ridicolaggini. Quindi certo, gli altri comuni italiani mancano di ogni solidarietà, ma questo è un vecchio discorso, non siamo un paese, è inutile che facciamo le retoriche sull'unità nazionale, non siamo un paese, l'Italia non è più un paese, non è mai stato, ma non l'è neanche mai diventato. Allora, io le voglio presentare ai nostri ascoltatori un prete eritreo che è presidente dell'agenzia Bescia. Anche lui è stato, credo, qualcuno l'ha candidato, ecco, non mi viene la parola, a premio Nobel per la pace. Si tratta di Don Mussi Ezzerai. Buongiorno Don Mussi e benvenuto. Buongiorno. È una persona che notoriamente da anni è proprio fisicamente in contatto telefonicamente con molti dei migranti che fanno quella tratta e grazie anche alle sue segnalazioni sono state salvate migliaia di persone che erano spesso in mare alla deriva. Don Mussi Ezzerai, le coste libiche sono controllate da chi in questo momento? Beh, sono controllati da diversi gruppi armati, le milizie, dipende poi dove, in quale zona. Tripoli è controllata da un gruppo, mentre la parte del Cirenaica è da altri, quindi dipende poi i punti di da cui li fanno partire. Quindi c'è il timore, voglio dire, che utilizzino anche in maniera strumentale le tragedie delle persone per farle arrivare da noi, magari farle arrivare più numerose, oppure quando non è conveniente non farle partire? Ma questo l'uso politico di questi gruppi di persone disperate ci può essere, così come faceva anche Gheddafi. Non è che anche ai tempi di Gheddafi non c'erano questi tipi di utilizzo, anche lui ricattava l'Europa se non riceveva gli aiuti che chiedeva, diceva allora sarete invasi, quindi questo lo facevano altri prima, lo fanno anche questi adesso, però da lì venire a dire che arriveranno i terroristi tramite i barconi. Infatti ha anticipato la mia successiva domanda e questo allarme. Non ci credo affatto, perché semmai quello che stiamo assistendo è il contrario, dei fondamentalisti o jihadisti che partono dall'Europa verso questi paesi e andare nelle fila. Sì, ma poi io non me lo immagino uno che vuol fare un attentato e prende, va su un barcone rischiando la vita, poi venendo prelevato, insomma vengono finanziati, prendono un aereo e molto spesso vivono e crescono in mezzo a noi, come dimostrano i casi della Francia, come dimostra il caso della Danimarca, o no, Don Zerai? Ma sì, è così, bisogna vedere poi, vabbè, adesso non possiamo fare qui adesso tutta la sociologia di questi problemi, dove nascono, dove crescono queste situazioni, però sta di fatto fino adesso almeno non abbiamo queste testimonianze di gente che è arrivata via mare, che poi anche se arrivasse via mare vuol dire che ci deve essere qualche barista qui che lo aiuta per poter fare attentato o cose del genere, non è che verrà con le bombe addosso, con i gommoni. L'idea dei kamikaze, l'idea dei kamikaze sinceramente si vuole sperare anche un po' strampalata. Comunque l'ha scritto un giornale britannico, la nostra intelligence smentisce, ma così è. Cacciari, le voglio far ascoltare, come tutti gli ascoltatori, Gentiloni, ministro degli esteri, sulla questione dei migranti. Di fronte alla crescita dell'onda migratoria una cosa è certa: non possiamo voltarci dall'altra parte, lasciando i migranti al loro destino. Non possiamo farlo, non sarebbe degno dell'umanità e della civiltà che hanno fatto grande l'Italia. Allora, questa è la linea del governo italiano, però Cacciari, oggi Marine Le Pen su Repubblica intervistata dice bisogna chiudere le frontiere, lo sa che anche la Lega dice chiudere o rivedere i trattati di Schengen. Certo, non possiamo voltarci dall'altra parte, ma possiamo anche accettare, e fino a che punto numericamente, l'arrivo di nuove persone? Guardi, come è stato detto prima, è chiaro che c'è un allarmismo isterico alimentato da forze politiche in Europa che hanno tutto l'interesse a drammatizzare la questione, appunto istericamente, perché questo porta voti, e questo però bisogna tenere conto, non è un fatto irrilevante. La politica, e la grande politica, è fatta anche di strumentalizzazione, è fatta anche di demagogia, è fatta anche di mitologia, e bisogna tenere conto. diciamo, in una situazione davvero drammatica in Europa, perché potrebbero anche facendo leva su questa e su queste paure affermarsi forze anti-europeiste, forze xenofobe, insomma noi europei dovremmo pur sapere cosa avviene quando prendiamo paura, no? Dovremmo pur saperlo, no? Cioè lei teme un ritorno addirittura un ritorno a 70 anni insomma, fa? Beh, insomma, non sarà il ritorno, ma insomma certamente i rischi ci sono, insomma, dell'affermazione di forze politiche assolutamente xenofobe, assolutamente strane ad ogni idea di solidarietà, eccetera eccetera, quindi non cose da poco. Primo aspetto, quindi bisogna reagire con forza, con convinzione, non sottovalutare questi pericoli. La seconda questione è, prima di tutto, appunto, come diceva Gentiloni, un problema di umanità, ma però vorrei dire, cioè, va bene, sì, ma mica, cioè, quando questi barconi partono, quanti sono i morti per mare prima che noi riusciamo a salvarne qualcuno? E quando un barcone parte, qual è la percentuale di quelli che arrivano e di quelli che finiscono annegati, donne e bambini? Quindi la prima questione è cercare di evitare che anneghino queste persone. Allora, come può fare l'Europa per evitare che anneghino? Io credo che siamo arrivati al punto di dover mettere una qualche barriera alla partenza, non all'arrivo. Sì. Solo che la partenza, non so come ci possa fare, certo, il problema fare, è che ma per ragioni umanitarie, solo che la partenza però è da uno Stato, abbiamo sentito, totalmente sotto controllo, bene, vuol dire Stato, è uno Stato sfasciato che l'Europa insieme attrezzi una forza che si mette lì e impedisce che questi barconi partano, viva Dio. Cioè, perché il problema è che quando i barconi partono, ripeto, è quasi matematico che una buona percentuale di persone finiscano morti annegati. Allora il problema non è all'arrivo, perché quelli che arrivano è chiaro che occorre accoglierli. Il problema che nel frattempo sono morti. E il problema è la partenza. Don Zerai, che ne pensa? Oggi il Sole 24 Ore con Marco Ludovico racconta che la gestione dell'immigrazione, perché si dice tanto che è europea, ma io in maniera brutale ieri ho detto l'Europa se ne fotte, ma oggi lo ribadisco, la gestione dei costi dell'immigrazione in Italia è 1 miliardo di euro l'anno almeno. Don Zerai, che ne pensa dell'idea di mettere una barriera alla partenza? Proprio dal punto di vista umanitario, dice Cacciari, perché sennò annegano molti. Ma allora, per me si deve fare due cose. Da una parte, per ampliare l'attuale o rinnovare il mandato di Triton, dare almeno lo stesso mandato del Mare Nostrum, per andare a cercare e salvare le persone che sono nel Mediterraneo, sì. Nello stesso momento è anche dare la caccia ai trafficanti. Però invece Cacciari dice non farli partire proprio. Ma il problema è che per non farli partire vuol dire che tu devi attuare un blocco navale anche dentro le acque territoriali libiche, questo vuol dire comunque entrare anche in conflitto con l'altra parte. Però se si vuole fare un altro lavoro bisogna andare a sud della Libia per bloccare gli ingressi verso la Libia. Allora lì bisogna lavorare per, vuol dire intanto di andare a cercare, sì, nei paesi di origine quali sono i problemi che spingono queste persone a partire. Guardi, e questo ce l'ha, ce l'ha detto anche qualche giorno fa a questi microfoni il sottosegretario Manzione, a dire noi stiamo lavorando con il Niger, con il Mali, con il Chad, con questi, per cercare di capire se si può fare in qualche modo un vaglio di chi ha il diritto, magari status di rifugiato, di profugo lì, e chi ha il vaglio per chi ha questo diritto da lì. Evita la traversata del deserto, la traversata del mare e va direttamente nei paesi. Però sono rapporti diplomatici complicati, ecco. Ma vogliamo ripartire da qui tra un attimo. Io devo salutare il professor Massimo Cacciari, lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie Cacciari. Se Don Mosse Zerai può rimanere con noi dopo la pubblicità mi fa molto piacere. Ci raggiungerà anche Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera per capire davvero se questi allarmi sono veri, sono falsi. Si parla addirittura di un allarme aereo scattato qualche giorno fa in Italia, ovviamente in gran segreto, di aerei che erano pronti a partire da Sirte in Libia per venire in Italia. 24 mattino. Alle 8:40 minuti siamo con Don Mussi Ezzerai, che presiede l'agenzia Bescia. e con Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, che saluto. Ciao Fiorenza, ben ritrovata. No. Allora, mi ha un po' preoccupato leggere addirittura di un allarme aereo scattato nei giorni scorsi, peraltro senza poi riscontri, per aerei pronti a decollare da Sirte per colpirci. Non c'è un po' di panico esagerato in questi giorni? Esatto, proprio così. C'è un panico esagerato, però bisogna neanche sottovalutare il problema, nel senso che poi purtroppo quello che è accaduto in Francia, a Stoccolma, in Australia, ci dimostra che comunque questa formazione dell'ISIS ha intenzione di creare panico, di fare morti in Occidente, e in effetti diciamo non sono mai stati così vicini come adesso all'Italia, quindi c'è sicuramente molto panico, ma c'è anche una preoccupazione per quel che potrebbe accadere. C'è anche da dire però che dall'altro lato tu ricordi oggi sul Corriere della Sera come gli 007 non reputino molto fondata l'ipotesi dell'utilizzo addirittura di barconi con kamikaze a bordo. Qui Don Mussi e Zerai, che si occupa di questi temi da anni, ha detto: mi sembra una cosa sinceramente poco credibile. A questo danno peso le nostre autorità di intelligence? No, per fortuna no, perché io lo ripeto sempre, è bene tenere molto distinto quello che è il flusso migratorio da quello che è il pericolo terrorismo. Non ci sono terroristi sui barconi, non c'è nessuna evidenza di questo. Dubito che se i terroristi decidessero di arrivare in Italia lo farebbero a bordo dei pescherecci, dei gommoni o di tutti quei mezzi messi a disposizione dagli scafisti. C'è invece, questo sì, un aumento dei flussi migratori dovuto probabilmente anche al fatto, come raccontano gli stessi migranti che arrivano a Lampedusa eccetera, anche diciamo qualcuno ha detto ci hanno messo sulle barche con ci puntavano le armi, probabilmente questo serve a creare il caos, a creare il panico, comunque a colpire l'Occidente, questa è un'altra cosa. Infatti si parla di tante cifre. Vorrei chiedere Don Mussi, queste cifre che circolano, 200.000, 300.000 persone pronte a partire, lei che il polso della situazione lo conosce, quante sono le persone in Libia che presumibilmente potrebbero arrivare nei prossimi mesi? Ma allo stato attuale il massimo possono essere 40.000, non è in questo momento realistico parlare di questi 200.000, addirittura qualcuno ha parlato di 500.000, però se precipita nel conflitto vero e proprio, allora sì che potrebbe aumentare il numero, perché lì sarà un fuggi. E certo, si crea un'ulteriore situazione. Ma mi fa capire. In questo momento, allo stato attuale, se sono persone che normalmente passano dalla Libia per arrivare a chiedere asilo in Europa, sui 40.000. Non supereranno i 40.000. Ma perché chiamano lei? Ce lo può spiegare? Ma chiamano me per il semplice fatto di affinità linguistica, prima di tutto, e anche per il fatto che da anni. Beh, non tutti quelli dall'Eritrea forse chiamano lei per affinità linguistica. No, infatti non tutti sono dell'Eritrea, però inizialmente è partito dagli eritrei, gli etiopi, poi mano a mano passa parola, ma addirittura da come mi hanno descritto alcuni giornalisti che sono recati in Libia, hanno trovato il mio numero scritto sui muri dentro i centri di detenzione. E con l'iscritto sia nella nostra lingua che in arabo: se avete bisogno di aiuto chiedete questo numero. Per cui quante chiamate riceve lei al giorno da parte di persone di diverso tipo che le chiedono aiuto dall'Africa? Ma dipende dalle giornate, non è sempre stabile, però può essere da una media di 2-3 come fino a 10-15 al giorno, dipende dalle giornate. Può rispondere a un ascoltatore che via SMS ci dice: beh, ma insomma Don Zerai io lo chiamerei un basista. Lei a padronanza della lingua italiana presente cosa vuol dire un basista? Sì. Me ne hanno dette di tutto, di più su questo non mi stupisco, io non sono né un basista né niente di tutto questo, semplicemente di fronte a chi mi chiede aiuto io cerco di dare il mio aiuto se la situazione è una situazione di emergenza, di più quando si tratta di gente nel Mediterraneo, è questione di vita o di morte. Allora, prima vorrei chiedere ancora due cose a Fiorenza Sarzanini. Prima due ascoltatori, Alessandro da Savona, buongiorno. Sì, pronto, in realtà sono Claudio, comunque non mi importa. Ma Alessandro non è un'offesa, anche io mi chiamo così. No, anzi, è un onore. Prego, Claudio, prego. Allora, io vorrei toccare un punto che però vedo che poi viene sempre glissato, sembra quasi un tabù, ogni volta che si parla di sbarchi, di clandestini. Allora, tre italiani hanno attraversato lo stretto di Gibilterra a nuoto in 3 ore e 58 minuti. Qualsiasi sfigato con una barchetta a remi in 2 ore è dall'altra parte, passando attraverso il Marocco, che mi risulta sia uno stato molto più liberale, molto più tranquillo dell'inferno libico. Allora, per quale ragione la Spagna deve essere esentata da tutte queste discussioni? Io alla radio, in televisione, non sento mai parlare di questa cosa qua. Qualsiasi persona dotata di un minimo buon senso guarda la carta geografica e dice: se voglio passare là, da dove passo? Da Gibilterra. Invece no, noi dobbiamo organizzare navi, far morire gente in mare, soldi, ma sa quanti centri di accoglienza si creano con i milioni che spendiamo senza risultati, perché guardi, poi ne muoiono a centinaia nel Mediterraneo. Certo, ma Claudio, però il tema Spagna è interessante, non so se Fiorenza Sarzanini aveva un'altra domanda che poi ti farò sulla questione dei due libici presunti terroristi estremisti che già sarebbero a Roma, perché questo inquieta. Però perché la Spagna, chiede all'ascoltatore Claudio, non è molto intaccata in questo argomento? Siamo sempre noi in prima fila. No, perché la Spagna ha usato un'altra politica, la Spagna ha fatto l'enclave di Ceuta e Melilla, esatto. E quindi lì è molto più difficile arrivare. Infatti io volevo dire anche la cosa dei 200.000 nasce non che stanno arrivando 200.000, ma che se per caso dovesse degenerare la situazione libica con la guerra civile, con questa cosa degli egiziani che non possono più tornare a casa loro, perché la parte, diciamo, il corridoio per tornare in Egitto dalla Libia ha delle zone occupate dall'ISIS, il rischio sarebbe quello. Del resto l'altro anno sono arrivati in Italia 180.000 migranti. Sì, in un anno sì. Però invece a Roma si parla di due, lo scrive l'Espresso, diciamo di due libici. Come i migranti sui barconi. È come i migranti sui barconi. Non risulta nulla. Cioè non risulta nulla, però ci sarebbero tanto di identikit, sarebbero andati a comprare un visore notturno. No, non sono andati a comprare, infatti per questo poi secondo me è il pericolo vero, di creare panico in questo senso. Allora, non sono andati a comprare, sono andati a chiedere quali sono le norme italiane per i visori e per un giubbotto antiproiettile. Il carabiniere che era di turno alla stazione, avvisato, perché c'è sempre questa, diciamo, gli armieri devono sempre fare la segnalazione, si è insospettito e ha fatto questo identikit. Da qui a dire che ci sono terroristi liberi che girano per Roma. No, questo sì, però ci sono due persone che sono andate a informarsi per l'acquisto di un giubbotto antiproiettile e di un visore. E non è reato, perché non è reato. In questo momento è bene, non è se non altro, segnalarlo. No, sì, va benissimo. Però non è che ogni straniero che si va a informare di una cosa diventa un terrorista, perché anche questo secondo me è molto pericoloso. Sono cittadini libici, almeno questo si può. Ma questo però non risulta da nessuna parte. Pare si siano qualificati loro come tali. Vabbè, che uno entra e dice: siamo libici. Esatto, mi pare difficile. Vabbè, Lorenzo da Siena, buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti, salve. Io volevo dire brevemente un paio di cose. Prima di tutto che secondo me il problema dell'immigrazione e il problema dell'ISIS sono due problemi completamente indipendenti, legati, dal punto di vista del controllo, ma sono due cose diverse, ma certo. Attuale, ma sono probabilmente due problemi separati. Tra l'altro, dire che si dovrebbero costituire dei centri di accoglienza o delle barriere alla partenza, vale a dire in Libia, è anche sbagliato secondo me, perché queste persone partono drammaticamente da molto più lontano. E infatti Don Zerai ci dice che bisognerebbe fare un lavoro al sud della Libia. Un doppio problema, perché si spenderebbero soldi e risorse per riportarli in Libia e nessuno e non si risolverebbe il problema. Poi voglio dire un'altra cosa, da un punto di vista più, diciamo, politico. Mi domando come sia possibile che un ministro degli esteri spari certe dichiarazioni tipo siamo pronti a combattere, cosa che in Italia non si sentiva dagli anni 20. quando in realtà ci sono livelli diplomatici da attivare, sì. Voglio dire, sostenere militarmente, politicamente, a economicamente combattere l'Egitto, l'Egitto che sta facendo un lavoro sporco, sporchissimo, che nessuno vuole fare, sì. È forse la soluzione migliore. Diciamo migliore. Vabbè, ma allora insomma chi dice che magari non lo fanno? Chi dice magari che non lo si stia già facendo un sostegno all'Egitto che se non altro ha fatto un raid sia aereo e un raid via terra? Fino a questo momento non ho letto grandi dichiarazioni anche di prese di distanze diplomatiche nei confronti di quello che ha fatto l'Egitto. Avrei una domanda conclusiva però da fare a Domus e Zerai e sulla questione di cui diceva l'ascoltatore prima: perché vengono soprattutto in Italia e non vengono in Spagna? Perché chiamano lei e non vanno da un'altra parte, Domus? Ma non è vero che non vanno in Spagna, basta molto andare meno, a vedere molto anche meno, di là. Però, molto meno. Molto meno perché ovvio chi parte dal Corno d'Africa gli è più vicino passare dalla Libia, sì. Piuttosto che andare in Marocco. Però chi viene da ovest è un po' più. E chi viene anche da ovest, da una parte il fatto che la Spagna ha creato questa isola per i migranti nell'enclave a Ceuta e Melilla. Per cui è diventata una barriera insuperabile. Ci sono dei documentari che certo. Che forse anche... lei dice dal suo punto di vista umanitario non è quella la politica. Sa che per molti, anche i nostri ascoltatori, quella sarebbe la politica più dura da supportare nei confronti dei ma infliggere ulteriori sofferenze ai profughi, ai migranti, se questo lo troviamo come soluzione, che è una soluzione incivile, ma potrebbe essere una soluzione, però non ha nulla di civiltà questo tipo di... perché basta guardare come vengono trattati lì in questi enclave. Chiaro, la sua posizione è molto chiara e la ringrazio. Don Mussi Zerai, ripeto, presidente dell'agenzia Bescia, come Fiorenza Sarzerini, inviata del Corriere della Sera, grazie per essere stati con noi. Dobbiamo andare al traffico. 24 mattino. Nostro viaggio per il mondo a scoprire persone che ci ascoltano. Oggi voglio salutare Cristina. Buongiorno, anzi buonanotte. So che devo dire Cristina. Dove sei, Cristina? Sei sparita? Pronto? Non ci sentiamo più. Mannaggia. Per Cristina, ci senti? Ma che? Cristina, pronto, noi ti sentiamo, tu ci senti? No, dobbiamo richiamarla, mannaggia, è che abbiamo 3 minuti, queste sono le classiche cose che succedono e che poi ci rubano in diretta nel tempo prezioso, mannaggia. Mentre io il clock vedo che va avanti, 8:54, 32 secondi. Cristina ci ha chiamato, ci ha contattato perché ci segue, che lo devo dire io? È brutto che lo dica io dove sta, sarebbe una cosa un po' triste. Vabbè, che devo fare, ragazzi? Guardo Peter Bescapè, questo è il bello della diretta. Guardo Peter Bescapè che sta telefonando. Guardo Lorenzo Nespoli che sta telefonando. Cristina non risponde. Cristina, ma sei in linea? Pronto? Ci sei? Cristina, eccoci qua. Dove sei tu? Buongiorno, Alessandro. Dove ti trovi? Sono a Villarica, in Paraguay. A Villarica, in Paraguay. E che ore sono lì? Sono le 5 meno 10 del mattino. Ah, vabbè, ma neanche prestissimo. Io mi sveglio alle 5 tutti i giorni, quindi ti abbiamo svegliato. Dai. Un po' prima. Tu ci hai contattato perché, oltre a seguirci, eccetera, stai facendo col tuo fidanzato, se non sbaglio, un viaggio per il Sud America. Sì, stiamo girando il Sud America, facendo un po' un viaggio alla scoperta e un po' volontariato. Ah. Adesso siamo fermi a Villarica, in Paraguay, grazie all'associazione Pesape Onlus di Torino, che ci permette di lavorare in questa casa famiglia femminile dove ci sono bambine dagli 0 ai 18 anni. Che bello, che paese avete visto finora? Allora, siamo partiti dal Paraguay, poi abbiamo fatto Brasile, Uruguay, Argentina e siamo ritornati qua per un po' di tempo. Il posto più affascinante che avete visto in questo viaggio? Sicuramente l'Uruguay. L'Uruguay? Tutta la regione della Rocha. Vabbè, i cugini, non diciamola quelli del Paraguay dove siete adesso, perché che l'Uruguay è meglio, non diciamo. E loro purtroppo non hanno il mare. Non hanno il mare, ma è bellissima questa cosa, la fate anche per volontariato. Quanto starete in giro? Staremo fino a maggio. Fino a maggio? Fino a aprile, primi di maggio, sì. Mannaggia, purtroppo il tempo è volato perché c'è stato un problema di collegamento. Dimmi solo, magari ti richiamiamo, ma diteci, ti richiamiamo uno di questi giorni nel vostro giro, teneteci informati. Dimmi però che cosa vi manca dell'Italia. In questo momento famiglia e amici. Famiglia, niente di quello che è l'Italia. Niente di quello che è l'Italia. Allora facciamo così, Cristina, che adesso devo chiudere. Ti richiamiamo uno dei prossimi giorni. Tanto siete in giro fino a maggio. Ogni tanto seguiremo il vostro viaggio, eh? Siete i nostri inviati ufficiali. Vi investo adesso di questa carica. A domani.